Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, non è poi così difficile fare una lettura della situazione politica attuale. La Lega non ha mai abbandonato i suoi propositi secessionisti e a questo scopo ha elaborato una strategia che, per quello che si può vedere finora, sta funzionando. Abbandonata l'idea di una rivoluzione improvvisa e, se necessario, violenta, la dirigenza leghista ha elaborato una strategia di lungo termine. Come Machiavelli e la saggezza popolare insegnano, il fine giustifica i mezzi e in politica, come in guerra e in amore, tutto è lecito. L'alleanza con il PDL ha lo scopo dichiarato di stare al governo e dare passo passo attuazione a tutti quei provvedimenti che consentiranno un giorno alla Padania di staccarsi dal resto dell'Italia, prima fiscalmente, poi amministrativamente, per infine fondare una repubblica autonoma. Il popolo leghista tollera con un certo disagio l'alleanza con il PDL, che al pari degli altri partiti tiene più alla propria sopravvivenza e agli interessi dei propri dirigenti, piuttosto che alle sorti del paese. Dopo un primo tentativo nel primo governo Berlusconi, naufragato a causa dell'ostruzione di AN al progetto della Lega, in questa nuova alleanza, nella quale la parte più ostile alla Lega si è chiamata fuori dall'alleanza di Forza Italia e AN, il progetto può riprendere il suo cammino. Gli eventi giocano a favore della Lega, che ha saputo molto sapientemente cavalcare la tigre del malcontento causato dalla crisi, l'occasionale aumento dei reati commessi dagli immigrati e la feroce critica scatenata dai media nei confronti dei politici e dei palazzi. Ma il primo passo per ottenere l'indipendenza della Padania è mettere il Sud in condizione di camminare con le proprie gambe, e per fare questo è necessario innanzitutto combattere la criminalità organizzata, che vuole mantenere il Sud in uno stato di precarietà permanente, per poterne poi sfruttare le debolezze. Come dice l'ottimo Saviano, la criminalità del Sud fa i suoi più grossi affari al Nord, ma è al Sud che mantiene le sue radici e si rifornisce di manodopera criminale. La strategia del ministro dell'Interno è quella di recidere le radici per fare morire tutta la pianta. Per fare ciò è necessario spostare una parte delle risorse destinate alla sicurezza al Sud, lasciando provvisoriamente più esposto il Nord, ma anche questo gioca a favore della Lega, dove la percezione di insicurezza si riflette in un atteggiamento di intolleranza nei confronti delle persone, ma soprattutto delle istituzioni. Le ronde suppliscono alla carenza delle forze dell'ordine e avvicinano la Lega ai cittadini. Se un complotto viene ordito ai danni di Berlusconi, questo può essere ad opera della Lega, che in virtù dell'ultimo risultato elettorale e con i riflettori dell'opinione pubblica puntati sulla vita privata del Premier, può chiedere, per motivi di opportunità, un avvicendamento al vertice della coalizione, dando così nuovo e più deciso impulso al processo di cambiamento che la Lega stessa ha in mente. Lettera firmata. Vorrei comunicarvi le mie impressioni sul mancato ricambio di queste elezioni. Io sono una ragazza e seguo la politica, ma non reputo particolarmente interessanti i nuovi volti femminili che hanno ottenuto un seggio alle europee, a partire dalla mia regione, il Friuli, dove la giovane Serracchiani non fa che ripetere e rafforzare, certo con più appeal mediatico e un tono pacato che le dona molto, quello che chi è intorno a lei nel partito ha continuato a dire da molto tempo. Anche il famoso intervento dinanzi a Franceschini rimproverava la dirigenza, ma salvava la stante Franceschini, il che mi fa dire, quantomeno, che il nuovo sia in ottimi rapporti con il vecchio. Non è comunque solo il caso Serracchiani. Prima di lei ci sono state la Picerno, la Madia e altre che magari non ricordo. Candidate cooptate con il tappeto rosso, soddisfatte di esserci e disposte alla coabitazione nel cambiamento, ma non così diverse, in fin dei conti, da una Melandri. Tutto ciò è perfettamente gattopardesco, a mio avviso, del tutto comprensibile, ma resta il fatto che non si ha un vero ricambio in questo modo, e non tanto per le manovre della leadership in crisi, quanto per le caratteristiche intrinseche delle nuove leve, preparate ed attive, ma in definitiva mansuete. L'unica figura che trovo in linea con un'ipotesi di cambiamento ancora da verificare è Matteo Renzi, e non a caso, aprendo la sua homepage, si legge una frase di Stendhal che recita come un debutto in società non possa che avvenire con un duello, se no che debutto è. Renzi ha ammesso che alle europee non è andata bene al PD, senza tirare in ballo la vittoria o sconfitta percepita. E poi ha escluso alleanze con chi gli aveva già impedito in passato, per motivi ideologici, di rispettare un programma. Forse occorrono più candidati giovani e maschi, forse sarebbe opportuno iniziare a candidarsi contro e non con. Non si tratta peraltro di un problema di sinistra, il fatto è che a destra in pratica non lo si avverte. Le donne sono a volte molto belle e l'anti-berlusconismo fa il resto. Marina. Ho notato, negli ultimi tempi della campagna elettorale, più di una nota critica nei confronti di Dario Franceschini, che nel corso di un programma televisivo aveva tenuto a precisare come alcuni ospiti del medesimo programma, mi pare si trattasse di Rossella e Belpietro, fossero dipendenti di Berlusconi. Trattandosi di un dibattito di carattere politico, la reazione è stata violenta, considerato che nell'affermazione di Franceschini si è visto un vulnus alla credibilità o indipendenza di giudizio di alcuni dei soggetti partecipanti al dibattito. Comprendo la stizza degli interessati, ma l'anomalia sta nel fatto che il politico più potente del paese sia pure l'editore più importante. Il giornalista che lavora per il capo del governo è un portavoce, lavoro nobile, incarico ricoperto in ogni parte del mondo da fior di giornalisti che decidono di fare un'esperienza che li renda per un certo periodo della loro vita controparte dei loro colleghi. Esperti dei media che in piena libertà decidono di fare un'esperienza politica dove il loro patrimonio professionale assume rilievo fondamentale. Solo in Italia i giornalisti che lavorano per un editore che è capo del governo e del partito di maggioranza relativa pretendono di essere considerati svincolati dal rapporto professionale che li lega a un editore che è politico per definizione. Credo che il pubblico debba essere informato del rapporto che i partecipanti ad un dibattito politico hanno con gli esponenti dei partiti, in particolare se questi ultimi sono l'editore da cui il giornalista dipende. Solo un ascoltatore informato potrà valutare l'indipendenza di chi esprime un'opinione politica attraverso i media del servizio pubblico. Lettera firmata. Gentile direttore, il cristianesimo è una grande religione, cosa seria, eppure ogni tanto c'è tra i credenti qualcuno che pensa a ridicolizzarla. Quando fu riesumata la salma di Padre Pio, il vescovo Domenico D'Ambrosio riferì: «Si vedono benissimo le ginocchia, le mani, i mezzi guanti, le unghie. Se Padre Pio mi permette, è come se fosse passato un manicure». E molti, moltissimi fedeli, corsero ad ammirare la bellezza di quelle lunghe unghie, ignorando che da tempo gli esperti di tanatologia hanno appurato che la crescita delle unghie è dovuta al ritiro dei tessuti. Oggi leggo sul giornale ilportico.it di Cava dei Tirreni. Importante appuntamento spirituale per Cava dei Tirreni. Giovedì 25 giugno la parrocchia di Sant'Alfonso custodirà per un giorno una reliquia di San Pio. In arrivo un grumolo di sangue delle stimmate del frate di Pietrelcina, previsto un grande afflusso di fedeli. E saranno molti, moltissimi fedeli ad ammirare il grumolo, perché grumolo, che è la parte più interna e tenera di un cespo di insalata e non grumo, ignorando che nel Vangelo non esiste nessun miracolo sull'uomo che tenda minimamente a menomarne o a deturparne il fisico. Tutti, indistintamente, mirano al suo benessere spirituale e materiale. In cielo, il Signore avrebbe cambiato atteggiamento e avrebbe cominciato a dispensare stigmate e tormenti, mettendosi in qualche modo sullo stesso piano dei suoi crocifissori. Francesca. La corrispondenza sicuramente innocentissima, durata 55 anni, tra Giovanni Paolo II e Wanda Poltavska, che il pontefice chiamava affettuosamente Dusia, sorellina, rischia di frenare il processo di beatificazione. A mio modesto parere, il processo di beatificazione non andava proprio fatto. Ma posso osare di fare delle critiche a un papa ritenuto da tutti i fedeli grandissimo e santo? Al massimo posso permettermi di accennare perché avrebbe potuto essere ancora più grande e ancora più santo. Sarebbe stato ancora più grande e più santo, e forse un martire, se oltre a cambiare la storia del mondo avesse tentato di trasformare la Chiesa. Se l'avesse resa, ad esempio, meno ricca e meno potente. Il Signore inveiva contro i ricchi e i potenti. Poteva mai avere un'idea di Chiesa rispondente a quella attuale? Sarebbe stato ancora più santo se non avesse messo, con sconcertante disinvoltura, aborto ed eutanasia sullo stesso piano dell'omicidio e soprattutto del delitto commesso da Caino. Trascurando il particolare che all'origine del fratricidio biblico c'erano la gelosia, l'ira, l'odio profondo, sentimenti che non possono essere ovviamente all'origine dell'aborto e dell'eutanasia. Più grande e più santo se non avesse negato, come i suoi predecessori, il sacerdozio alle donne. Ancora più santo, Papa Wojtyła, se avesse detto ai sacerdoti che rifiutare l'Eucaristia ai divorziati risposati significa mettersi in una posizione diversa da Gesù, il quale offrì a tutti il pane spezzato, non escludendo neppure che si trovava in peccato gravissimo, l'apostolo traditore. Sarebbe stato più santo se avesse riconosciuto che non è possibile, in base al Vangelo e alla ragione, ovviamente, ritenere peccaminosi gli atti di omosessualità. Ancora più santo il Papa se avesse riconosciuto la liceità del ricorso ai contraccettivi artificiali. L'uso del profilattico, infatti, non riguarda solo la procreazione. Si tratta anche di evitare, ricorrendo a un mezzo innocuo, il diffondersi di una tremenda malattia che produce morte e sofferenza. E l'indifferenza della Chiesa di fronte a questa tragedia contrasta palesemente con lo spirito del Vangelo. Ancora più santo il Pontefice se ai diritti dell'embrione avesse anteposto i diritti delle donne, se non avesse canonizzato personaggi come Padre Pio, i quali con la santità avevano poco da spartire. Renato. Caro Renato, la sua critica non solo al papato, ma alla Chiesa attuale è forte e profonda. Ci vorrebbe molto tempo per entrare nel merito delle sue considerazioni, ma vorrei fare una riflessione di fondo. Lei vorrebbe insegnare al Papa a fare il proprio mestiere e vorrebbe una Chiesa profondamente diversa da quella attuale. Ne ha ovviamente diritto e anche le critiche più forti possono essere costruttive, ma il compito della Chiesa non mi sembra quello di inseguire la modernità, ma di indicare all'uomo la riscoperta profonda della propria libertà e della propria umanità. Certo, la Chiesa può sembrare un'istituzione del passato, impegnata sui valori tradizionali, con una immagine di santità molto legata alla devozione, più che all'impegno sociale. Ma c'è soprattutto un fatto da mettere in rilievo. La Chiesa non è un partito politico o un'organizzazione umanitaria. Ha un compito di profezia. E i veri profeti sono sempre scomodi. Egregio direttore, le scrivo per illustrarle quanto sia misera la considerazione della classe politica per la ricerca industriale nel nostro paese. La ricerca industriale è quell'attività che le aziende italiane conducono da sempre, investendo somme importanti in laboratori, ricercatori, tecnici, impianti, prototipi, eccetera, per ottenere innovazioni di prodotti e processi. Quindi la ricerca industriale è cruciale per consentire alle nostre aziende di essere competitive rispetto alla concorrenza sui mercati nazionali e internazionali. Grazie a ciò il nostro paese e gli italiani hanno un tenore di vita ai più alti livelli nel mondo occidentale. A questo punto lei si domanderà quale ruolo imprescindibile la ricerca rivesta nella pianificazione strategica dei nostri governanti. Per niente, caro direttore, ai nostri governanti della ricerca industriale non gliene può fregare di meno. L'unico strumento di agevolazione pubblica per la ricerca nel paese è il credito fiscale della legge 296, per il quale il famoso decreto salvacrisi del novembre scorso istituì la procedura telematica per la prenotazione del credito presso l'Agenzia delle Entrate. Lo scorso 6 maggio alle ore 10 in punto è scattata la prenotazione per via telematica ed è successo che nel giro di 34 secondi, milionesimo di secondo in più o in meno, si siano esaurite le risorse disponibili a supporto della ricerca industriale per le imprese italiane per gli anni 2008-2009. Ripeto, 34 secondi. Puoi immaginare cosa sia successo in giro per l'Italia negli uffici delle aziende il 6 maggio alle ore 10 spaccate? Assembramenti di impiegati davanti ai videoterminali, pronti a schiacciare il pulsante invio allo scoccare della fatidica ora, dirigenti con attacchi di panico per lentezza di ADSL, eccetera, eccetera. Al di là dello spettacolo grottesco, resta il fatto che chi sceglie su quali strategie puntare lo sviluppo futuro del paese reputa che lo spazio da dedicare alla ricerca industriale non debba superare 34 secondi per gli anni 2008 e 2009. E per quei poveretti che, come il sottoscritto, il 6 maggio alle ore 10 in punto hanno sofferto un attacco intestinale che li ha momentaneamente distratti dal videoterminale, non resta alcuna alternativa che continuare a pagarsi la ricerca in azienda di tasca propria. Lettera firmata. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.